X24, i gialli della storia. Il re è a Napoli. Questo grido scuote la folla. Le 100.000 persone di piazza del municipio diventano presto 150.000, poi 200.000 e aumentano continuamente quando gli affluenti di via De Pretis e della galleria principale di Napoli vanno ad ingrossare. Quella che raccontiamo oggi a MX24 è la storia di una figura controversa, travolta dalle colpe di Casa Savoia e dall'incalzare della tragedia. Per la Casa Reale, quello con il regime fascista è stato un vero e proprio patto col diavolo. Le leggi razziali e la catastrofe della guerra a fianco a Hitler sono il sigillo di un'infamia incancellabile. Un giudizio che nemmeno la caduta del regime fascista il 25 luglio del 43 e l'armistizio dell'8 settembre riusciranno mai ad attenuare. A restare invece è la fuga da Roma di Vittorio Emanuele III e della corte che lascia il paese e l'esercito in balia dell'esercito tedesco. A seguirlo anche il principe ereditario Umberto. A parlarne lo stesso Umberto di Savoia, intervistato da Nicola Caracciolo nel 79. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione. Lei non era d'accordo per lasciare Roma. Puntoni lo dice molto, molto, molto chiaramente. Lei lo chiamò nella sua camera, sì. Dove lei stava con le braccia conserte, e gli disse appena entrò: secondo me l'aver lasciato Roma è stato un grave sbaglio. Aver lasciato Roma in quel modo, sì, può essere uno sbaglio. In quel modo, senza avvisare i ministri, ecco, quella era l'unica mia... Sì, la cosa che ancora adesso, naturalmente sono convinto che è stato un peccato che i ministri non abbiano avuto la possibilità di, anche loro, di raggiungere, insomma, il re, oppure di prendere le loro disposizioni. Lei non sta forse coprendo, voglio dire, non raccontando un dissenso che vi fu perché ritiene di non doverlo fare? Cioè, no, lei non andò più in là di quello che ci dice ora? Non andai più lì, assolutamente. Mia nonna lo obbligò a partire e lui dico: parto, però che brutta figura. Questo lo me l'ha detto. Avete sentito Vittorio Emanuele di Savoia? Impensabile criticare, impensabile per Umberto andare contro la decisione del padre. L'educazione Savoia non ammette repliche. Quanto a Umberto, il suo è un dilemma personale e di Stato, il dilemma di un uomo nato per essere re. Ne parla lo storico Gianni Oliva. Umberto II è stato un personaggio dalla personalità molto complessa, molto sofferta, molto contratta, un personaggio malinconico, un'infanzia e un'adolescenza difficili, con un padre, Vittorio Emanuele III, arido nei sentimenti, freddo, che non gli ha dispensato né l'affetto né il calore di un padre. Ma nel momento in cui entra nell'età in cui deve essere preparato ed educato a diventare uomo e a diventare principe, a diventare futuro re, subentra il rigore. Il rigore vuol dire gli orari, vuol dire le lezioni, vuol dire il vedere il padre e la madre soltanto due volte alla settimana in occasioni ufficiali. Poi vorrà dire il collegio della Lungara a Roma, dove durante gli intervalli gli altri ragazzi giocano, scherzano, e lui invece passeggia con un ufficiale che gli legge le motivazioni delle medaglie d'oro dei soldati italiani caduti nella Prima Guerra Mondiale. La fase felice di Umberto coincide con i secondi anni 20, quando, terminata la fase di formazione, viene a vivere a Torino. Il bel mondo torinese vive fino in fondo i ruggenti anni 20 e Umberto ne è uno dei protagonisti. Una corte che fa sognare gli italiani, lontano dal grigiore del padre e dalla violenza del regime. Umberto è l'essenza stessa della monarchia e dell'anima di un paese che vuole sognare. Probabilmente in quelle frequentazioni delle sale da ballo o della Courmayeur avrebbe voluto essere molto più fragoroso, molto più esuberante, perché sempre subentrava l'autocontrollo ereditato dall'educazione a principe reale che aveva ricevuto. Ma se il futuro di Umberto di Savoia sembra scritto dalla nascita, nel 22 con l'avvento del fascismo cambia tutto. annientata ogni opposizione democratica, azzerata ogni libertà, il regime si basa sul culto della personalità del duce, che non ammette nessun rivale. Troppo ingombrante la figura di un principe ereditario bello e affascinante, che rischia di oscurare la sua figura nelle cronache e nei cinegiornali, come spiega lo storico Gianni Oliva. Mussolini non ha mai dimostrato simpatia nei confronti di Umberto e credo che ne abbia patito la popolarità. Umberto era un personaggio popolare, Mussolini era un dittatore, i dittatori non vogliono mai condividere la popolarità con qualcun altro. Quello tra il duce e il principe ereditario è un confronto che nasce sul piano dell'immagine e non solo. Fa scalpore l'allontanamento da Casa Savoia del figlio del maresciallo Diaz, Marcello, che era entrato con il distintivo del Partito Nazionale Fascista, ma a Casa Savoia non si indossa il distintivo di nessun partito. Umberto, che Mussolini ordina alla stampa di definire sempre principe di Piemonte e mai principe ereditario, deve essere sminuito e offuscato. Il capo della polizia Arturo Bocchini riceve addirittura l'ordine di preparare le prove per associarlo a uno scandalo sfondo sessuale. Ne parla il giornalista Luciano Regolo e lo storico Alessandro Campi. Si è sempre parlato dell'esistenza di un dossier ricattatorio tenuto e aperto da Mussolini con le informazioni che provenivano direttamente dall'Ovra, la quale comincia veramente a sorvegliare costantemente Umberto, con pettegolezzi che erano all'inizio contraddittori, no? Perché si parlava di storia eventualmente con una donna molto famosa di Torino, a invece diciamo a storie a sfondo omosessuale, e poi presero proprio questa piega. Sicuramente esistono dei dossier con i quali Mussolini pensava di poter ricattare la monarchia, Umberto era tenuto sotto osservazione dall'Ovra, però diciamo, la condiscendenza della monarchia, la passività di Vittorio Emanuele III nei confronti del fascismo ha ragioni essenzialmente politiche. La monarchia favorisce l'ascesa del fascismo al potere e salva se stessa. Con altre rivoluzioni in Europa le monarchie spariscono, in Italia invece si salva. Quindi questo è l'elemento politico di convivenza che la monarchia accetta, al di là dei ricatti, delle carte segrete, delle pressioni della polizia segreta. Ma per Umberto la dinastia va salvaguardata ad ogni costo e si accelerano i tempi. È il momento del matrimonio con Maria José, per mettere a tacere chiacchiere e pettegolezzi. Umberto nel 30 si sposa con Maria José, la figlia del re del Belgio, che proviene da quelle che sono chiamate le monarchie delle biciclette, estremamente democratiche, come racconta Maria Gabriella di Savoia. Maria José era la sposina ideale. E lei era tutta contenta, credo, perché viveva il suo mondo delle favole. Poi ho conosciuto la vecchia governante di mia madre, che gli diceva che lei avrebbe sposato questo principe che veniva dall'Italia, che era così bello, che era molto bello. Un matrimonio d'amore per la principessa del Belgio, benedetta dal Papa e dal regime, e in cui tutte le case reali del mondo sono rappresentate. Ancora Gianni Oliva. Questo loro matrimonio è immediatamente difficile, perché è passata la settimana di grandi festeggiamenti romani, che sono un'occasione di spettacolarizzazione del regime, quindi sono un lavoro e un dovere per il principe e la principessa. Vanno in viaggio di nozze in Valle d'Aosta, ma Umberto II porta con sé tantissimi amici e di lì cominciano subito le frizioni. Umberto vive il matrimonio come un dovere di principe. Maria José aveva pensato che fosse anche un matrimonio d'amore. E se la luna di miele tra Umberto e Maria José tramonta sulla fredda realtà di un matrimonio di Stato, anche la fredda convivenza tra Casa Savoia e il fascismo mostra i primi segni di cedimento. La guerra di Etiopia del 35 e poi quella di Spagna del 36 sono un passo importante verso l'alleanza col nazismo. Quando Hitler arriva a Roma nel maggio del 38, due mesi dopo l'annessione dell'Austria, è lo stesso re ad accoglierlo alla stazione Ostiense. Come da protocollo, ce ne parla ancora Alessandro Campi. Vittorio Emanuele pretende di essere lui a dare la mano per primo a Hitler quando arriva a Roma alla stazione per ragioni di protocollo, con Mussolini che sta un passo indietro. E questa cosa verrà rimproverata a Mussolini dai capi nazisti. Dirà Hitler: ma come puoi accettare di star dietro rispetto ad uno che non ha la tua grandezza romana? Il disprezzo tra Vittorio Emanuele III e Hitler è assolutamente reciproco. Il re considera il Führer un plebeo e Hitler considera il re una sopravvivenza del passato, qualcosa da eliminare. Hitler è contro la monarchia, contro l'aristocrazia. L'antipatia fra Umberto e Hitler era nata 2 anni prima, alle Olimpiadi di Berlino del 1936, quando Umberto si presentò in abiti borghesi e non in divisa, nonostante la presunta ufficialità dell'avvenimento. Ginevra, 9 giugno 1938. Ritengo doveroso segnalare che negli ambienti politici si afferma che il principe di Piemonte ha deciso, su istigazione di altissimi ambienti militari italiani, di partecipare attivamente alla politica dell'Italia per eliminare definitivamente alcune influenze del partito fascista. Avete sentito il rapporto della polizia segreta del regime? È nel 38 che militari e ambienti monarchici vedono in Umberto un'occasione per la successione. Ma nei mesi successivi il legame tra l'Italia fascista e Germania nazista si fa sempre più stretto. È l'orrore delle leggi razziali. Ancora Alessandro Campi e Aldo Mola. Nel rapporto col fascismo, il re è convinto di potersi salvare attraverso lo Statuto Albertino, trincerandosi dietro il Senato, sul quale ovviamente ha una grandissima influenza. Vittorio Emanuele III rifiuta in prima istanza di firmare un decreto sulla difesa della stirpe o difesa della razza. Poi firma. La verità è che Vittorio Emanuele condivideva con gran parte degli italiani i pregiudizi allora diffusi nei confronti degli ebrei e non è mai andato oltre, come dire, un'umana pietà nei confronti degli ebrei italiani. Umberto guarda con sconcerto la decisione del padre, ma non la rinnegherà mai. È come se Casa Savoia abbia abbracciato il fascismo indotto alle circostanze, no? E poi si ha, diciamo, perita in questo abbraccio mortale. La coreografia di Stato in cui procedevano fascio Littorio e scudo Sabaudo insieme sarà fatale poi alla dinastia, anche come, diciamo, come immagine, come credibilità e tutto il resto, perché nessuno sapeva quali erano i rapporti sotterranei in questo senso. Avete sentito lo scrittore Luciano Regolo, un abbraccio mortale che macchia per sempre l'onore della corona, anche se Umberto si rifiuta di licenziare il suo aiutante di campo ebreo Salvatori. Secondo l'Ovra, la casa di Umberto e Maria José sarebbe diventata un covo della cospirazione antifascista e sarebbe la principessa belga a spingere sempre di più il principe ereditario verso una qualche forma di opposizione al regime. È negli ambienti culturali, nei salotti della capitale, che Maria José incontra intellettuali dissidenti come Benedetto Croce. Come racconta ancora Maria José in un'intervista del 79 a Nicola Caracciolo. Ebbi dei contatti con delle persone del partito opposto, dell'antifascismo, che insomma erano abbastanza al corrente, insomma capivano che questa situazione andrebbe sempre peggiorando. Ma la famiglia reale è sempre spiata. Ero sempre seguita dalla polizia e i telefoni erano sempre sorvegliati e anche c'erano dei microfoni nel Quirinale. Umberto sicuramente avversava il regime e Mussolini, però diciamo, più che un antifascismo in senso politico, che poi si traduceva in atti di opposizione concreta, il suo era un antifascismo di casta. E però appunto da qui immaginare che potesse diventare il capo di una opposizione politica al fascismo, come spesso si è detto, sicuramente ne passa. Anzi, dirò di più, probabilmente la vera antifascista tra i due, quella più attiva, era sicuramente la moglie Maria José. Avete sentito lo storico Alessandro Campi? I timori della polizia fascista sembrano trovare una conferma all'estero. Un documento del 39 del ministro degli esteri inglese stila un memorandum su un'ipotesi di golpe contro il regime fascista. A parlarcene lo scrittore Luciano Regolo. Questo golpe che era stato progettato da Umberto, Maria José, Umberto avrebbe rinunciato alla corona in favore del figlio Vittorio Emanuele, Maria José sarebbe diventata reggente. Tutto sembra disposto per il 27 settembre del 1938, quando poi invece l'accordo che viene siglato con le grandi potenze, che scongiura la minaccia della guerra, fa soprassedere a questa, diciamo, motivo. Roma, 28 dicembre 1938. Si dice che la principessa di Piemonte sia decisamente avversa al regime. Sarebbe stata inviata a Londra in missione segreta, dove insieme al fratello del re del Belgio avrebbe visitato il sovrano d'Inghilterra per prendere accordi con lui. Così scrive la polizia segreta alla vigilia della guerra e le voci sull'antifascismo del re arrivano anche alle orecchie del Führer. Mussolini è messo in pericolo da quell'imbecille di un re e da quel perfido furfante di un principe ereditario. Durante la guerra, Umberto è un simbolo della dissidenza al fascismo. E questo vale sia per i militari che per i fascisti che non si identificano più in Mussolini e che sono contrari al proseguimento dell'alleanza con i tedeschi. Avete sentito Giovanni Cencini, storico. Umberto è sempre più in secondo piano, offuscato, irraggiungibile per molti della sua stessa cerchia che già pensano un cambio di fronte. Ne parlano Vittorio Emanuele di Savoia, Giovanni Cencini e Amedeo d'Aosta. Sono sicuro che lui avrebbe potuto fare molto, invece era stato, diciamo, soffocato. Conosceva gli alleati, gli inglesi, che avevano grande stima di lui. Gli inglesi, nel tentativo di far sganciare l'Italia dalla politica dell'asse, cercano in Amedeo, viceré d'Etiopia, ma soprattutto cugino di Umberto, l'occasione per arrivare al principe ereditario e così scardinare l'Italia dal fascismo. Il generale Pesenti, che era responsabile della Somalia, Somalia italiana, andò un giorno ad Addis Abeba a dire: Altezza, facciamo una pace separata con gli inglesi e così ci sediamo al tavolo della pace in modo completamente estraneo a quello che sta succedendo. E Amedeo gli risponde: lei dovrebbe essere fucilato per quello che mi sta dicendo e io dovrei essere fucilato per averlo ascoltato. Nell'autunno del 42 per l'Italia la situazione al fronte è disastrosa. Le voci di un complotto per spodestare Mussolini si fanno sempre più insistenti. Ancora Luciano Regolo. Altro tentativo disperato che fa Umberto nel 1943 con il cognato Filippo d'Assia è d'accordo, va da Hitler a dire che l'Italia comunque intendeva uscire dalla guerra. Hitler arresta Filippo d'Assia per questo, senza che nessuno della sua famiglia ne sa niente, infatti per questo poi Mafalda verrà arrestata. Però a quel momento, diciamo, Umberto diventa odiatissimo, ancor più anche dalla gerarchia nazista. Roma, 18 marzo 1943. Secondo le voci che corrono, sarebbe Casa Savoia e il partito militare che vogliono preparare il pubblico all'ascesa al trono del principe Umberto. Era il rapporto della polizia segreta sul conto di Casa Savoia. Ascoltiamo Maria José. Erano d'accordo che bisognava fare il colpo di Stato, a cominciare con Badoglio. Che cosa avrebbero chiesto gli alleati? L'uscita della guerra, che avrebbero riconosciuto l'Italia come una nazione, ma che non doveva fare nessuna rivendicazione, ma che poi se avrebbe meritato di diventare l'alleato. Lui non poteva dire farò io il colpo di Stato. Il re è una posizione molto difficile, non poteva dirlo. Se il re non può agire, il 25 luglio del 43 è lo stesso Gran Consiglio del fascismo a sfiduciare il duce. Vittorio Emanuele III fa arrestare Mussolini e Pietro Badoglio diventa il presidente del Consiglio. Sono giorni decisivi, mentre Roma rassicura la Germania sulla fedeltà all'asse, l'8 settembre Badoglio dà l'annuncio dell'armistizio con gli anglo-americani. Dal Quirinale il re fugge a Pescara e poi al sud, nell'Italia già liberata. Se Umberto è in qualche modo costretto a seguire il padre, l'altra figlia Mafalda, ignara di tutto, resta a Roma, arrestata dai tedeschi, morirà a Buchenwald. Ancora Gianni Oliva e Gianni Cecini. La fuga dell'8 settembre non è vergognoso in quanto fuga. È naturale che un capo di Stato cerchi di non farsi arrestare dal nemico. È vergognosa perché è una fuga fatta senza dare nessuna indicazione al paese, lasciando le centinaia di migliaia di soldati che sono in Italia o che sono nei Balcani o che sono nella Francia meridionale senza nessuna indicazione operativa e lasciando l'intero paese allo sbando. Durante il Regno del Sud gli americani non si fidano di Umberto, perché non si fidano del popolo italiano. Vorrebbero che indossasse l'abito borghese in luogo della divisa, ma lui riesce comunque a riorganizzare alcune formazioni militari e partecipa in prima persona ad alcune azioni di ricognizione in territorio nemico. Nel giugno del 44, una volta liberata Roma, sono proprio gli americani a premere su Vittorio Emanuele perché abdichi in favore del figlio, ma il re tiene duro, non vuole lasciare il trono. Si limita a nominare Umberto luogotenente del re. Umberto di fatto è un re senza corona, però può finalmente esprimere la sua idea di monarchia moderna e democratica. Ce ne parla Amedeo d'Aosta. Umberto ha 2 anni di luogotenenza che sono equiparati a essere capo di Stato e riesce a fare qualche decreto, qualche regio decreto anche se i momenti non sono facili, sono brutti. Secondo Umberto, il decreto del 16 marzo del 1946 che indice il referendum tra la Repubblica e la monarchia è l'unica possibilità che la Casa Reale ha di sopravvivere alla disfatta della guerra. Il 9 maggio del 1946 intanto Vittorio Emanuele III abdica a favore del figlio Umberto, che è solo contro tutti. Comincia un tour elettorale che lo porta in tutta Italia tra gli applausi a sud e i fischi a nord. Ma remare contro di lui è soprattutto il poco tempo a disposizione, finché il tempo scade e arriva il momento della verità. È il 2 giugno del 1946. Umberto vota il 3 giugno, la sera del 4 può ancora sperare, come racconta lo storico Gianni Oliva. Quando giungono i risultati, e giungono prima i risultati del mezzogiorno, che assegnano la vittoria alla monarchia, il giorno dopo il risultato invece cambia, perché arrivano le schede votate nel nord. Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Nel mezzogiorno si grida al broglio e in Napoli c'è una manifestazione spontanea che attraversa la città e che portano a 11 morti. Il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. Cerimonia breve, austera. Due contabili davanti al presidente hanno registrato sulle calcolatrici le cifre. L'uno quelle della monarchia, l'altro quelle della Repubblica. Alcide De Gasperi preme perché Umberto faccia un passo indietro, ma Umberto rifiuta più volte di fermare il passaggio dei pieni poteri a De Gasperi. A un inizio un braccio di ferro. Il 13 giugno la svolta. Il governo non aspetta i risultati della Cassazione e assume i pieni poteri. A consigliare Umberto di lasciare l'Italia sarebbe stato addirittura Pio XII. Rivolgendosi alla nazione dopo il referendum, anziché parlare di colpo di Stato, Umberto parla di un gesto rivoluzionario di De Gasperi che avrebbe forzato la mano sui risultati del referendum. Il re scioglie l'esercito dal giuramento di fedeltà alla corona, temendo scontri e forse una nuova guerra tra italiani, ma d'altra parte rifiuta di abdicare e giurare fedeltà alla Repubblica. Il 13 giugno del 1946 parte alla volta di Cascais in Portogallo, l'unico paese che si sia offerto di accoglierlo. Il 1 gennaio del 1948 entra in vigore la 13ª disposizione transitoria e finale della Costituzione, con cui si vieta l'ingresso e il soggiorno in Italia agli ex re di Casa Savoia e le loro consorti e ai loro discendenti maschi. Dopo una lunga malattia, l'ultimo re d'Italia muore a Ginevra il 18 marzo dell'83. Al suo funerale non è presente nessun rappresentante dello Stato italiano. Mi si chiama il re di Maggio, ma faccio parte di una famiglia che ha regnato per 1000 anni e non un Savoia avrebbe accettato, durante tutto questo tempo, di sminuire la figura del proprio padre. Neppure, come nel mio caso di re pressoché dimenticato, per mendicare un ritorno di fiamma e di ricordo. Ebbene, io non mi sono mai considerato pomposamente il re degli italiani. Mi sono sempre considerato, e mi considero tuttora, il più umile e devoto servitore del mio paese e del mio popolo. Ecco tutto. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.